Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Lo scorso fine dicembre, quindi solo poche settimane fa, si sono tenuti a Napoli gli stati generali dell'idrogeno e delle celle a combustibile con esperti da tutto il mondo. E così noi vogliamo approfittarne per fare il punto su quella che molti ricercatori considerano una delle tecnologie più promettenti della nostra epoca. L'idrogeno, infatti, quando viene bruciato, produce come gas di scarico solo vapore acqueo e quindi è a emissioni zero. Inoltre, bruciandolo in modo controllato all'interno di speciali pile o celle a combustibile, l'idrogeno permette di produrre elettricità con un'efficienza elevatissima, formando quindi un connubio ideale per alimentare le auto elettriche del futuro. Tuttavia, la strada per convertire il parco automobilistico e dei trasporti all'idrogeno è appena all'inizio. Si trova di fronte tre ordini di problemi: il costo delle celle a combustibile, che oggi è ancora elevato, la mancanza di un'infrastruttura di distribuzione per l'idrogeno e infine una filiera dell'idrogeno rinnovabile tutta da sviluppare, dato che l'idrogeno che usiamo oggi proviene dai fossili ed è ben poco green. Ne parliamo di questo argomento così complesso in due puntate, stasera e domani sera, con Angelo Moreno, presidente di H2IT, l'associazione italiana per l'idrogeno e le celle a combustibili, che naturalmente sa tutto di quanto è venuto fuori al convegno di Napoli. Buonasera Moreno. Buonasera. Allora, questa sera vorrei che ci focalizzassimo soprattutto sul tema delle celle a combustibili, che, lo ricordo agli ascoltatori, funzionano un po' come delle pile, solo che i reagenti, invece di essere impacchettati all'interno, a un certo punto esaurirsi, vengono continuamente forniti dall'esterno. Nel nostro caso parliamo di idrogeno e ossigeno. Ecco Moreno, intanto parliamo di sistemi che non forse a bordo delle automobili, ma che in realtà vengono già utilizzati ampiamente. Sì, possiamo dire sicuramente che è una tecnologia consolidata e ci sono esempi di applicazioni vere in giro per il mondo. Per esempio in Italia ci sono circa 300 antenne telecom che sono alimentate da sistema cella a combustibile idrogeno. Ripetitori localizzati in località remote, no? In questo caso. Localizzati in località remote. Per esempio in Giappone ci sono già ormai quasi 150.000 case giapponesi nelle quali sono state montate sistemi a cella a combustibile e a metano e o idrogeno per produrre elettricità e calore. Quindi una caldaia che fa anche cogenerazione elettrica, 150.000 in Giappone, sì. 150.000 in Giappone, ci sono sistemi di movimentazione merci all'interno di sistemi chiusi, cosiddetti muletti, e per esempio in America ce ne sono già 10.000 esemplari, quindi possiamo dire che le tecnologie esistono, sono affidabili e sono consolidate. Sono affidabilissime, direi, perché da sempre le celle a combustibile si usano nello spazio, dove notoriamente mandare qualcuno a fare manutenzione è cosa assai complicata. C'è invece il tema del costo. Queste celle a combustibile oggi, sia le tecnologie a metano, le cosiddette a ossidi solidi, o quelle polimeriche per l'idrogeno, comunque costano tanto. Spesso si parla del platino che è presente in queste celle a combustibile, che notoriamente è costoso. Sì, il platino era un problema nel passato, lo è sempre di meno oggi, direi che quasi potrei dire che non è più un problema, ma ovviamente ci stiamo ancora lavorando, sia con l'idea di sostituire il platino con altre sostanze, detto cosiddetti platinoidi, ma anche con cose molto più avveniristiche, per esempio sfere di rame ricoperto di platino. Se queste tecnologie vanno in porto, potremmo addirittura diminuire di un fattore 10 la quantità di platino. Ecco, queste sfere di rame, perché in pratica serve solo che la superficie sia ricoperta di platino, si fanno le sferette placcate di platino, diciamo placcate così, di platino, per avere per cui, diciamo, tanta superficie, usare poco platino, perfetto, insomma, sostanzialmente. Sì. Ecco, quindi non è più questo il problema, allora dov'è il problema? Il problema è il solito, è un problema di produzione di massa. Un esempio tipico è quello delle automobili a idrogeno e cella combustibile. Oggi, per mettere a bordo di un'automobile a cella combustibile una cella con una potenza sufficiente, si spendono dai 10 ai 20 mila euro. Si producono di quella stessa automobile qualche centinaia di migliaia di esemplari, immediatamente il costo scende intorno a qualche migliaia di euro, quindi con un fattore 10 rispetto al precedente. La stessa cosa la possiamo vedere, per esempio, e questo è un esempio reale, con gli autobus. C'è un accordo, si chiama l'accordo di Riga, nel quale l'Europa ha fatto sottoscrivere ai produttori di autobus a idrogeno europei un accordo nel quale loro si impegnano a vendere gli autobus a 650.000 euro per ogni autobus, quindi più o meno la metà di quello che costano adesso, purché ci sia un ordine di circa 1000, di almeno 1000 autobus per anno. Che sarebbero tantissimi per la città di Roma, ma forse per tutta l'Europa non sono tutta poi l'Europa così tanti, lei sta dicendo. Sono poche decine di autobus per ogni città. E l'Europa, se questo patto viene rispettato, poi è disponibile a finanziare ogni autobus con 250.000 euro. Questo porterebbe il costo per chi dovesse aderire a questo, a questa lista, a 400.000 euro, a questa lista di primi 1000 autobus, è abbastanza vicino ai costi di un autobus convenzionale o a idrogeno. Comunque, insomma, questo per dire che il costo sta proprio scendendo. Qualche anno fa oggetti del genere costavano anche 2 milioni, no? Sì, ecco. Certamente. E quindi una differenza assolutamente significativa. Va bene, grazie Angelo Moreno, ci fermiamo qui, ma riprendiamo domani a parlare del futuro delle auto a idrogeno. Buona serata.